Abbiamo alcune segnalazioni per quanto riguarda l'agenda con gli appuntamenti della settimana teatrale romana e non solo a cui teniamo. Uno di questi è Circocentrica alla Torre, al centro sociale La Torre, dall'8 all'11 settembre, e ne parliamo con Michele. Michele, ci sei? Sì, eccomi. Eccoci. Grazie per la chiamata, un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio. Ben trovato. Allora, raccontaci un po' di Circocentrica. Sì, ormai appuntamento solido del settembre romano, la prima edizione è dal 2000, quindi insomma in 16 anni, questa è la 11ª edizione di questo evento, insomma, legato alle arti circensi, alla giocoleria, al nuovo circo, il circo contemporaneo. Quest'anno però diverse novità, perché l'anno scorso abbiamo passato il decennale e abbiamo deciso di cambiare un pochino la struttura di Circocentrica, che da quest'anno quindi andiamo a chiamarlo Festival, il Festival Romano del Circo Contemporaneo. Abbiamo quindi appuntato un pochino di cambiamenti alla struttura degli spettacoli, soprattutto perché abbiamo voluto dare più spazio non tanto ai singoli artisti che potevano presentare magari numeri brevi nelle precedenti edizioni, ma alle compagnie di circo contemporaneo che sono presenti ormai numerose anche in Italia e che quindi non hanno chiaramente molti spazi per a disposizione per presentare i loro lavori a Roma, ma insomma in generale in Italia. In Europa il panorama è decisamente più favorevole e aperto, e quindi abbiamo deciso di invitare diverse compagnie a presentare i loro spettacoli nei 4 giorni di festival. Se vuoi appunto possiamo andare nel dettaglio a vedere un pochino la programmazione. Sì, ti chiederei intanto da dove vengono le compagnie ospiti quest'anno. Basicamente sono quasi tutti artisti italiani, poi definire appunto da dove vengono rispetto al circo che è nomade della Costituzione, certo, un po' difficoltoso. Però cominciamo ad esempio giovedì sera, la serata di apertura, abbiamo veramente il grande piacere di ospitare forse la più importante compagnia di circo contemporaneo. Loro si definiscono compagnia di circo contemporaneo all'antica, si chiamano Circo Il Grito, è una compagnia composta fondata da due artisti che sono Fabiana Ruiz Diaz, che è un'artista uruguayana, e Giacomo Costantini, che invece è italiano, di Roma, e loro appunto sono stati forse fra i primi a cogliere questo cambiamento, insomma, che in Europa già era presente insomma da diverso tempo. Pensiamo alla Francia, il Belgio, tutto il nord Europa, dove appunto la contaminazione fra i diversi linguaggi espressivi, dal teatro alla danza contemporanea, sono andati a contaminare già da tempo quelle che erano le arti circensi tradizionali, creando appunto questo movimento che si chiama circo contemporaneo, in cui appunto si vanno a fondere questi linguaggi espressivi. Spesso presenta anche la musica dal vivo, e appunto loro sono stati tra i primi in Italia a costruirsi come compagnia circo contemporaneo. Tempo. Sì, ti sento. Con un po' di difficoltà, ma ti sentiamo ancora. C'è un po' di vento. Poi nel tempo sono anche riusciti a allestire un vero e proprio tendone, per questo appunto circo contemporaneo nell'antica. Purtroppo non siamo riusciti ad avere anche il tendone per Circocentrica, ma insomma potremo vedere quello che è la loro prima produzione, che si chiama Scratch and Sketch, che è stata rappresentata. Aveva avuto oltre 180 repliche in tutta Europa, rappresentata nei più grandi spazi insomma dedicati al circo contemporaneo. A Roma loro hanno fatto spettacolo all'Auditorium, ma insomma in Belgio sono stati ospiti della Biennale Internazionale degli Arti Circensi. Sono insomma una compagnia molto molto valida. Scusate, ma sono camminando, eccomi, ora mi sono un po' ripreso. Quindi la loro, il loro spettacolo, la serata di apertura sarà dedicata a loro, con uno spettacolo che comprende quindi acrobatica aerea, giocoleria, ma anche musica dal vivo, uno spettacolo molto poetico, e insomma è una apertura di cui siamo veramente veramente molto contenti. ma appunto la differenza rispetto agli altri anni è che abbiamo pensato sempre tutte le tre. Ecco, abbiamo recuperato la linea. Eccoci, sì, stavo appunto parlando dello spettacolo della serata d'apertura, che però appunto quest'anno non, la novità principale è che non ci sarà un solo spettacolo a sera, ma abbiamo pensato di diversi spettacoli ogni giorno, in diverse fasce orarie, questo anche per garantire la partecipazione anche ai più piccoli, insomma, a chi li accompagna, che spesso si lamentavano dell'orario di inizio degli spettacoli troppo tardo da Centro Sociale Romano. Quindi intorno alle 7 del giovedì, che del venerdì, che del sabato, che della domenica ci saranno degli spettacoli, questi invece di strada. Abbiamo appunto dato spazio ad artisti di strada di Roma, ma non solo, che appunto presenteranno i lavori che normalmente, quando ne hanno la possibilità, non sono multati o allontanati dagli spazi pubblici, generalmente portano nelle strade. Mm-hmm. Giovedì appunto sarà il Nino, l'artista, venerdì Michela Samachi, sabato Alessio Paolelli e domenica invece la compagnia Circo Bipolar, questi gli spettacoli pomeridiani. Invece, ritornando agli spettacoli serali, giovedì abbiamo già parlato abbondantemente della grande apertura con Il Grito, invece venerdì ci sarà uno spettacolo che fonde anche questo musica e arti circensi, perché nasce dalla compagnia La Sbrindola, nasce dall'unione di un musicista, un batterista, insomma, e un giocoliere, che daranno vita ad uno spettacolo che è molto, molto potente, energetico, a tratti anche esplosivo. E sabato invece, oltre agli spettacoli, vale la pena insomma ricordare anche qui è quello che è un appuntamento a cui noi teniamo molto durante lo svolgersi di Circocentrica, che è anche l'occasione per uscire poi dalla torre del centro sociale e invadere il quartiere con una parata che dalle 5 del pomeriggio attraverserà le vie del quartiere Casal dei Pazzi. Si parte dal festival, dalla torre, e si arriva di fronte al carcere femminile di Re Bibbia, dove insomma riusciamo per qualche minuto a rompere il muro, insomma, che isola le detenute dal resto della città, riuscendo insomma a far arrivare dentro le mura del carcere un po' del colore, della musica, del rumore che appunto portiamo in giro per il quartiere. Quest'anno la parata sarà animata, come spesso è capitato negli ultimi anni, dal Frate Murghero, che è appunto un raggruppamento di alcune delle murgas argentine che esistono a Roma, e appunto assieme a loro ci sarà questo piccolo corteo di giocolieri, acrobati, saltimbanchi e trampolieri, che appunto arriverà fino al carcere di Re Bibbia. Al ritorno dalla parata, ritornando verso la torre, ci sarà quindi lo spettacolo pomeridiano, e invece a partire dalle 22 lo spettacolo serale del sabato sarà uno spettacolo tutto al femminile. La compagnia si chiama Le Sue di Fantastiche, che presenterà questo lavoro molto divertente, in cui queste tre performer daranno vita insomma a diverse gag, utilizzando l'acrobatica aerea, ma anche hula hoop, lancio di coltelli, uno spettacolo che appunto è anche molto comico, anche con aspetti tecnici e poetici da non sottovalutare. Il sabato sera poi proseguiremo anche con un secondo spettacolo serale, quindi notturna piena, prevediamo insomma che verso mezzanotte di dare inizio a uno spettacolo che prevede come espressivo principale il fuoco, quindi uno spettacolo di fuoco della compagnia Crème et Brûlée, un duo, che appunto ci riporterà delle atmosfere un po' anni 20, anni 30, con musiche swing, una storia romantica di questi due personaggi che c'è appunto il fuoco e racconteranno appunto la loro storia. Tutte le sere poi, dopo gli spettacoli, quindi sia giovedì, venerdì che sabato, si proseguirà poi con delle serate musicali e si chiuderà quindi abbastanza tardi. La domenica mattina invece l'abbiamo dedicata interamente ai più piccoli, visto che poi tutto l'anno noi come centro sociale, come palestra popolare, proponiamo corsi di arti circensi specialmente ai bambini. E è un'attività che ci dà tantissime soddisfazioni e quindi abbiamo deciso di dare appunto un po' un assaggio di quello che vuol dire far provare a dei bambini, a delle bambine l'emozione insomma del gioco del circo, e quindi dalle 11 fino insomma all'ora di pranzo, fino all'1 ci saranno dei laboratori di arti circensi per bambini condotti non solo dai nostri operatori, ma anche questa mattinata realizzata in collaborazione con altre realtà che a Roma fanno questo stesso tipo di lavoro di insegnamento delle arti circensi più piccoli. Il pomeriggio ci saranno le Olimpiadi della Giocoleria, quindi si prosegue sempre con giochi all'insegna insomma per tutte le età. Poi lo spettacolo di chiusura della compagnia Circo Bipolare che dicevo prima, e diciamo questi 4 giorni così intensi sono giunti al termine. Senti, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web per il calendario? Allora, il sito proprio dedicato al festival è convention.csalatorre.net, ma comunque ci arriva anche facilmente dal sito della torre, che forse è più semplice, c'è la torre.net, semplicemente da lì poi ci sono i riferimenti per andare sul sito dedicato del festival, e poi siamo sui vari social network, sempre come Circocentrica, siamo insomma su Facebook, e lì poi ci sono anche altre informazioni, però comunque si trova sempre tutto sul nostro sito. Poi per chi non lo sapessi, siamo appunto a Via Bertero 13, il quartiere Caral de Pazzi, e anche comunque c'è scritto anche lì sul sito come raggiungerci. Benissimo, allora ricordiamolo: Circocentrica, Centro Sociale La Torre, dall'8 all'11 settembre. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepita. Ciao. ciao Michele.